Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi apriamo con un narratore molto noto e prolifico, Alain Elkann, che ritorna con un volume pubblicato da Bompiani, Spicchi di un'arancia, 156 pagine, 16 euro. L'arancia è un'entità evidentemente unica, diversa ciascuna dalle altre, e divisa appunto in spicchi, che anch'essi costituiscono delle entità singole di questa sfera, e quindi l'arancia diventa come una metafora della vita, i cui spicchi rappresentano le figure e i momenti che costituiscono i brevi capitoli in cui si sviluppa questo libro. Si comincia allora dalla nonna Berthe per poi dipanare una serie di attimi colti nella loro brevità che riassumono appunto il senso di una vita, di un'esistenza, e si forma così anche il quadro di una generazione cosmopolita che riassume nella propria vita le trasformazioni di un'intera società avvenute negli ultimi 50-60 anni. Ma sentiamo l'autore. Buongiorno ad Alain Elkann. Nella sua prima novella assistiamo al rogo dell'albergo Royal di Evian, che rappresenta quasi il simbolo della fine di un'epoca. In effetti i ragazzi che assistono al rogo nella conclusione della novella non lo sanno, ma si possono interrogare su quelle che saranno le conseguenze di questo evento. Ecco, che cosa rappresenta per l'autore questa fine di un'epoca? Era molto simbolico questo racconto, no? Perché nella prima parte racconta tutto un mondo che poi era quello dei nonni dell'autore, come erano, come vivevano, eccetera, eccetera, e improvvisamente nella loro vita c'è questo incendio e i bambini assistono all'incendio di questo albergo che è il simbolo di un mondo, e una volta bruciato questo mondo non ci sarà mai più. Ed è un po' così, no? Cioè era un mondo, tutto un mondo che simbolicamente precede quello che poi succederà dopo il 68, no? Quando tutti i costumi, il modo di vivere cambieranno. Ecco, poi c'è un racconto quasi speculare, quello di Vladimiro Cosma, che invece non è un ragazzo, ma a un certo punto si sente vecchio. Negli anni era sfumata la passione, lei scrive, a cui erano subentrate la routine, la conservazione, una serie di riti da rispettare, di promesse da mantenere. Era giunto a una fase della sua vita che lo faceva sentire vecchio. Sta in questo la vecchiaia, nella routine? Sì, nel senso che a un certo punto quest'uomo si ribella a un destino in qualche modo, no? Decide di riappropriarsi della sua vita e di andarsene, di uscire da quella gabbia in cui vive, ripetitiva, in cui non si tratta più di conquistare ma di conservare. E invece lui probabilmente vuole ancora vivere, vuole ancora sentirsi creativo, e quindi prende un treno e si lascia quella vita là dietro le spalle, che è un po' il tema della fuga, ma anche di una certa ribellione, no? Ma quello che è bello è che lei ha preso questi due racconti, uno si chiama Berthe, l'altro il castello di Chillon, uno apre il libro e l'altro lo chiude, e in tutti e due i libri il luogo scelto è il lago Lemano, no? Il lago dove c'è appunto il castello di Chillon e dove c'è anche l'albergo che brucia, e in mezzo ci sono tutti gli altri racconti che invece così sono tutti molto diversi uno dall'altro. I due che lei ha citato hanno proprio, aprono e chiudono il libro Gli spicchi di un'arancia. Uno di questi racconti allude a un'altra forma di routine, una routine festosa nella vostra giovinezza, che era quella rappresentata dalla festa del Kippur. Ecco, adesso che rapporto ha con questa ricorrenza? Ma lì di nuovo, no? Trascrivo un dialogo, una situazione che di nuovo non si ripeterà più, perché il ricordo di come i genitori, tornando dalla sinagoga, commentavano la giornata, no? E quindi c'è il ricordo di questa voce, di noi bambini che ascoltavamo i genitori. E oggi siamo diventati noi i genitori. Però nel mondo ebraico c'è questa cosa, come del resto in altri mondi, è quello di mantenere, malgrado tutto e qualunque cosa accada, delle tradizioni che sono millenarie. E quindi il Kippur resta la festa in cui gli ebrei una volta all'anno digiunano e fanno un giorno di espiazione dei loro peccati, no? E in qualche modo è la festa più simbolica degli ebrei, e anche quelli che spesso, anche chi non è religioso, e anche addirittura non credente, in qualche modo per rispetto per una tradizione, per i genitori, eccetera, fa questa giornata di digiuno. Uno dei racconti più singolari è quello intitolato Orsi Polari. Ecco, questo racconto è più un racconto sull'assurdità della burocrazia o sul progredire della correttezza animalista? No, no, la cosa... Mi fa piacere che lei prenda questo racconto, perché è l'unico racconto che io ho voluto lasciare in Spicchi di un'arancia, e l'ho scritto 20 anni fa. E quello che mi impressionava era di vedere che quello che avevo scritto allora, che era una specie di satira, no, della burocrazia, del mondo in cui viviamo, del nostro paese, eccetera, è identico a oggi, cioè non è cambiato nulla. Specie di muro di gomma, no? Di irrazionalità, di ingiustizia, chiamiamolo, per cui avvengono dei fatti che io lì, prendendo come metafora uno zoo e un direttore che diventa matto perché non riesce a riacquisire una coppia di orsi polari e gli propongono continuamente degli ippopotami, stanco, cambia zoo, va in un altro zoo dove scopre che mancano gli ippopotami, e però non riesce a ottenerli, ma gli proporrebbero in cambio degli orsi polari, cioè che è tipico di quello che succede, no? Cioè questo immobilismo della burocrazia nel nostro paese. Un'altra incursione nella contemporaneità che ci riguarda molto da vicino, almeno molti di noi, è il racconto Il Testimone, nel quale c'è un ritratto anche questo impietoso del mondo dell'informazione. Addirittura uno dei protagonisti, il direttore della rivista, lei lo definisce un grand'uomo che avrebbe venduto l'anima ai suoi figli per uno scoop. Il cinismo del giornalismo, no? Cioè bisogna dare una notizia, bisogna darla prima degli altri. Si ricorda quel famoso film con Jack Lemmon e Walter Matthau, no? Lo scoop, appunto, no? Cioè che per uno scoop, e in effetti molto spesso, anche se esercito questa professione, il giornalismo è molto cinico perché sfrutta cose terribili a suo vantaggio. Bene, grazie ad Alain Elkann, autore di Spicchi di un'arancia. Buona domenica. Grazie mille. Grazie. Buona domenica a lei. Vi propongo adesso un altro romanziere italiano, Walter Siti, un protagonista della nostra letteratura contemporanea, grande studioso di Pasolini e come lui cantore delle borgate delle periferie romane. In questo libro che vi presento oggi, uno dei borgatari ha fatto carriera, è Tommaso, un operatore della finanza, predisposto fin da bambino alla matematica, è nato da una famiglia povera, il padre è un piccolo delinquente che diventerà un omicida, divenuto lui stesso ricco, al punto di volersi permettere il lusso di farsi scrivere la biografia appunto da Walter Siti, e questo è il risultato che troviamo nel libro Resistere non serve a niente, Rizzoli, 322 pagine, 17 euro. Un romanzo storico lo definisce l'autore, che racconta la storia di un altro pezzo d'Italia di oggi, a metà tra finanza e criminalità, un mondo senza scrupoli al quale Tommaso si adatta in un'Italia gommosa e sciroccosa, un'Italia contemporanea dove a un certo punto si accenna anche all'Expo e agli appetiti suscitati da questa iniziativa. Il rapporto di Tommaso col denaro è particolare e in fondo insoddisfacente. Lui stesso si sente incerto e irrisolto. A un certo punto, scrive l'autore, se capitasse un incidente, chiamiamolo così, e si allude probabilmente a un omicidio, Tommaso quasi ne sarebbe felice perché qualcun altro lo solleverebbe dall'impegno di definirsi. E proprio questa irrisoluzione lo porta a un atto finale, definitivo e schifoso, compiuto più che per delirio di onnipotenza, quasi per una sorta di cupio dissolvi e anche per una sorta di voglia di chiudere i conti col padre, piccolo e sfortunato criminale. La criminalità grande, quella delle mafie che imperano in tutto il mondo e che sono protagoniste delle più spericolate operazioni finanziarie, Tommaso la conosce bene per esserne lui stesso il braccio finanziario. È una criminalità, scrive Siti, che costituisce un potere vincente, un potere a doppio fondo in cui chi comanda davvero si occulta dietro le chiassate dei media. La criminalità vivrà sicura e sdoganata se un'informazione cieca continuerà a dipingerla come un morbo alieno da cui ripulirsi come da una macchia sul vestito. E invece il libro dimostra questa criminalità entra nella vita di ogni giorno con interventi finanziari che condizionano la vita di tutti. Quindi questo libro costituisce un ritratto davvero impietoso e drammatico di un personaggio singolare, certo molto complessato, che sintetizza molti tratti dell'Italia e non soltanto di oggi, quella che facciamo finta di non vedere. Prima di dare la linea alle informazioni sul traffico, vi segnalo un'iniziativa di Radio 24 di Mondadori che vi trasformerà da lettori in scrittori. Si intitola Giallo 24. Radio 24 e Mondadori infatti invitano tutti gli ascoltatori a scrivere un racconto giallo che potrà essere letto su Radio 24 e poi pubblicato nei gialli Mondadori. Dovrete mandare una versione breve del vostro racconto da 2000 battute per la lettura in Giallo 24, che è una trasmissione che si avvierà su Radio 24 da luglio. E se invece volete puntare alla pubblicazione nell'antologia speciale dei Gialli Mondadori, che sarà poi pubblicata in autunno, dovrete mandare un racconto di non più di 20.000 battute. Naturalmente ogni autore potrà mandare più racconti. I gialli dovranno essere inviati in busta chiusa in un'unica copia a Iniziativa Giallo 24 presso redazione Giallo Mondadori, quarto piano, Torre Nord, Arnoldo Mondadori Editori, in via Mondadori 1 20 090 Segrate. E se non sono stato chiaro, potete cogliere altre informazioni su giallomondadori@mondadori.it oppure visitare il nostro sito, che ben conoscete, www.radio24.it. Affrontiamo adesso un tema abbastanza controverso nel dibattito contemporaneo, quello del rapporto del sacro nell'arte. E su questo tema ci sono molte polemiche, molti accusano per esempio le nuove chiese di essere orribili, e allora su questo tema intervengono due libri pubblicati da Cantagalli. Uno è di Vittorio Sgarbi e si intitola L'ombra del divino nell'arte contemporanea, 18,90 euro, 236 pagine. Sgarbi si occupa a ragion veduta di questo tema, in particolare perché ha curato la ricostruzione del Duomo di Noto, quello che era crollato alcuni anni fa e che è stata ricostruita in particolare nella cupola, la quale è stata poi decorata con un affresco moderno di Oleg Supereco. E qui Sgarbi descrive questa complessa operazione con alcune osservazioni sul rapporto appunto tra liturgia e arte sacra. E su questo polemizza con lo stesso Vaticano, protesta Sgarbi per l'assenza di molti artisti, per esempio nella produzione artistica contemporanea, o meglio nella committenza artistica contemporanea, per l'assenza di molti artisti che si sono misurati col sacro e che pure sono stati esclusi, per esempio dalla mostra che era stata organizzata per il 60° del sacerdozio di Papa Ratzinger, al quale invece partecipavano molti altri artisti chiamati, secondo Sgarbi, solo per il nome che portavano e non per la cultura che esprimevano, per il messaggio figurativo che volevano rappresentare. E qui Sgarbi critica molti di questi artisti e molte di queste realizzazioni, fra l'altro polemizza con tante nuove chiese che diventano, come scrive Sgarbi, poco più che hangar o magazzini. Per esempio critica molto l'architetto Fuxa, se invece loda l'architetto Botta per le loro realizzazioni in questo campo. Quindi un libro molto attuale, appassionante anche per il nesso tra arte e fede, che così Sgarbi descrive anche nella crisi. Sul fronte dell'architettura, in particolare quella cristiana e specificatamente cattolica, negli ultimi 50 anni assistiamo al ripetersi di moduli e formule, talvolta negative, che prendono corpo in un tentativo capriccioso di trovare forme nuove, generalmente geometriche, con pochissima forza inventiva. All'esaurimento delle energie creative del passato si aggiunge il declino della fede che un tempo era credula, mentre oggi è scettica, e l'architettura che ne deriva non può prescindere da questa premessa. L'altro libro, anch'esso pubblicato da Cantagalli, è di Rodolfo Papa, pittore e storico dell'arte, che si intitola Discorsi sull'arte sacra, 242 pagine, 17 euro. Queste sono delle annotazioni sull'arte sacra che si applicano all'intera arte figurativa. Per esempio ci sono profonde riflessioni sull'originalità che, secondo Papa, non può diventare fine a se stessa. Scrive Papa infatti che il culto dell'originalità, ovvero della ricerca costante di cose mai dette prima o di dipinti mai visti prima, ha lentamente causato una serie di spostamenti nella formazione del gusto che hanno reso incomprensibile un valore che in realtà è molto più importante dell'originalità, cioè l'originarietà, ovvero la relazione storica e teoretica con le origini. Insomma, in nome dell'originalità si è tradito quello che si voleva rappresentare. E conclude Papa con un'annotazione alla quale certo Sgarbi aderirà, cioè che l'arte sacra deve necessariamente essere un'arte figurativa. Scrive infatti l'autore che la pittura cristiana nasce naturalmente dal cristianesimo, dal fatto misterioso dell'incarnazione del Verbo divino, ed è originariamente figurativa in quanto il corpo di Cristo è un corpo reale. Una delle più grandi espressioni dell'arte sacra è un quadro di Caravaggio che purtroppo non possiamo più vedere, la Natività, che fu rubata nel 1969 in un fastoso oratorio di Palermo e non fu più recuperato. La storia e il significato di questo furto sono raccontati nel libro di Luca Scarlini, che è un saggista e drammaturgo, intitolato Il Caravaggio rubato, mito e cronaca di un furto, e pubblicato da Sellerio, 92 pagine, 14 euro. Questo libro non è un saggio, ma una sorta di grido di dolore per un indicibile atto di violenza che fu condotto contro la città di Palermo e contro l'arte, che rimasero vittima di un'incuria che aveva favorito questo furto. All'inizio del libro, per esempio, parla lui stesso, il quadro, anzi l'umile tela di cui è fatta, e la tela dice: fate piano, non sono una tela di sacco che diamine, non sono stata fatta con l'insaio del fraticello, sono preziosa io. Più di 3 secoli sono stata in pace, poi sono venuti quelli e statue o non statue, era già tutto finito e io non c'ero più. Taglio, il sangue dipinto cola i margini nel silenzio attonito nel presepe, urlo, io grido ma nessuno mi ascolta, i vicoli che non ho mai visto sono invischiati nel nulla della notte. La lametta da barba incide, sezione, fa pezzi, si impiglia nel colore, brucia il colpo che fende come una ferita di frusta. Resto attonita, non so che cosa fare. Quel furto naturalmente fu uno shock, al quale diede voce in particolare in maniera molto efficace Leonardo Sciascia, che scrisse in quell'occasione di essere sempre stato dell'opinione che l'Italia, cioè lo Stato, gli enti locali e ogni altra pubblica amministrazione, dovrebbe rinunciare totalmente e definitivamente alla custodia e manutenzione delle opere d'arte e anche dei manoscritti e dei libri rari. E concludeva Sciascia: l'Italia è il paese dell'arte, ma le opere d'arte vadano in malora. E il furto naturalmente si scrive e nella totale noncuranza per la cultura e l'ambiente che avevano determinato negli anni precedenti il sacco di Palermo. E qui si parla naturalmente del quadro di Caravaggio, dell'oratorio di San Lorenzo che lo custodiva e del Serpot, il grande artista che lo decorò, e naturalmente delle varie ipotesi sul furto. E si conclude soprattutto con la speranza che l'opera, chissà, possa ritornare al suo posto. Ormai, fa notare l'autore, i tempi della prescrizione per il furto sono scaduti, il furto stesso non è più perseguibile e dunque, conclude Scarlini, chi lo possiede ce lo restituisca, non rischierebbe più nulla. E naturalmente noi ci associamo al suo appello. Tutt'altro filone artistico troviamo nel libro di Steve Martin, l'attore che è anche un autore cinematografico nonché collezionista d'arte contemporanea, Oggetti di bellezza, pubblicato da ISBN Edizioni, tradotto da Lorenzo Bertolucci, 298 pagine, 19,90 euro. Questo è un romanzo che vuole descrivere il clima e l'ambiente dell'arte contemporanea e soprattutto quello delle case d'aste. Siamo a New York e Martin fa del libro l'occasione per sfoggiare la sua conoscenza dell'arte moderna e contemporanea e dei meccanismi che sovrintendono a questo mercato. A un certo punto usa una bella immagine per spiegare molte altrimenti incomprensibili eccitazioni nel campo dell'arte contemporanea. Scrive infatti: a ben guardare quei quadri non erano un granché, ma non appena Hinton Halberg li acquistò diventarono subito validi. Non c'è dubbio che la teoria della relatività sia applicabile all'arte. Come la gravità distorce lo spazio, così un collezionista importante distorce il senso estetico. E infatti nel libro si descrivono le altalene del mercato. E poi ci sono tante digressioni su quadri e artisti, tra cui ho trovato anche un brano che riguarda il nostro Morandi. Uomini in cappotto e cravatta si assiepavano nella galleria Talley e alle pareti erano appese le nature morte minimali di Giorgio Morandi, di solito non più grandi di un vassoio da tè. I marroni leggeri, i grigi cinerei, i blu silenziosi spingevano la gente a bisbigliare, come se una parola gridata avesse potuto far coagulare i colori e rovinare un quadro. Bottiglie, caraffe e vari oggetti di ceramica assomigliavano ad animaletti che si stringevano l'un l'altro in cerca di calore. Eppure questi timidi dipinti avrebbero potuto essere appesi accanto ai Picasso o ai Matisse senza soffrire di complessi di inferiorità. Quattro protagoniste dell'arte contemporanea italiana sono presenti nel libro di Rachele Ferrario, Le signore dell'arte, pubblicato da Mondadori, 180 pagine, 18 euro. Le quattro artiste sono Carol Rama, Carla Accardi, Giosetta Fioroni e Marisa Merz. Quattro grandi italiane, scrive l'autrice, che testimoniano la modernità e la libertà nell'arte contemporanea. Donne che hanno fatto della loro vita d'artista dei capolavori pioneristici di libertà e di anticonformismo. Ognuno ha compiuto la propria rivoluzione. Queste quattro artiste, spiega la Ferrario, sono importanti perché con le loro opere hanno lanciato e vinto la scommessa dell'arte come territorio franco della libertà femminile. E qui, in questi quattro capitoli, si dipana la carriera e il ruolo svolto da queste quattro grandi artiste nello sviluppo dell'arte contemporanea del nostro paese. E a questo punto il confettino. Concludiamo con un altro grande autore del Novecento, Carlo Fruttero, di cui viene pubblicato La linea di minor resistenza. È pubblicato da Gallucci, 28 pagine, 10 euro, illustrato da Giuliano Della Casa. Questo è un libro che frullava nella testa di Fruttero da molto tempo e la figlia lo ha raccolto presentandoci questa testimonianza inedita del grande scrittore piemontese. E con questo ringrazio Luca Cremonesi in redazione e Peter Bescapè in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica unlibro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento alla settimana prossima.